Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, sono Nicoletta. Anche oggi vi propongo una selezione di notizie che arrivano dal mondo della ricerca per suggerirvi idee e consigli per stare e sentirsi bene. Inizio con i risultati di uno studio pubblicato su Nature che svela il ruolo dei neuroni Morfeo, una grande famiglia che attiva il sonno mettendo in stand-by i neuroni del risveglio. Si aprono buone prospettive. Sulle nostre pagine il commento del professor Ferini Strambi e i consigli del dottor Luca Voledo per dormire bene con i rimedi naturali. Fuori dai licei le bevande zuccherate, l'industria europea dei soft drink, rappresentata da UNESDA, ha annunciato ieri a Bruxelles che cesserà volontariamente di vendere bevande che contengono zuccheri nelle scuole secondarie di tutta Europa. La decisione mira a ridurre l'obesità. I 28 membri dell'Unione Europea avranno tempo fino alla fine del 2018 per adeguarsi. A Obiettivo Salute, David Dabiankov, direttore generale di Assobibe. L'iniziativa, ci tengo a rimarcare, volontaria, quindi assunta dalle imprese di produzione bevande analcoliche in via totalmente volontaria, non è una legge, e vuole essere un contributo aggiuntivo per facilitare scelte equilibrate e consumi bilanciati, in particolare verso alcune categorie di consumatori, i bambini e gli adolescenti. Questa iniziativa assunta a Bruxelles e che verrà poi declinata nei vari paesi europei nei prossimi mesi è la seconda parte di un percorso che questo settore industriale ha iniziato già nel 2006. Questa ulteriore declinazione guarda le scuole secondarie e estende, come dire, l'autolimitazione alla vendita quindi anche di bevande zuccherate, cercando di facilitare un'educazione alimentare, un'attenzione da parte degli adolescenti anche a un consumo bilanciato e quindi con prodotti senza calorie o a ridotto contenuto calorico. E chiudiamo con i benefici dello yoga certificati dalla ricerca. A Obiettivo Salute il professor Bernardi, ordinario di medicina interna e attualmente affiliato all'Università di Helsinki. Ci sono evidenze quindi che hanno dimostrato come lo yoga, per esempio, abbassa la pressione arteriosa, riduce anche la frequenza cardiaca. Ma oltre a questo si è visto anche come lo yoga, per esempio, riduce quello che è la necessità di consumare energia del nostro corpo. Quindi il nostro corpo lavora facendo un po' meno fatica, diciamo. Ci sono anche altri campi importanti, come ad esempio quello respiratorio. È stato visto come lo yoga aiuta anche nell'asma e nelle patologie respiratorie croniche in generale. E sorprendentemente lo yoga aiuta anche a dimagrire. Se volete saperne di più e mettervi alla prova, sta iniziando la diretta Facebook. Seguiteci! Per oggi è tutto, ci sentiamo domani con Obiettivo Salute alle 12, quando scocca l'ora della salute.